100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Deborah Rosciani. Quella che si apre è una settimana molto importante. Siamo carichi di attese dopo il G20 australiano. Alcune piazze finanziarie stanno macinando un record dietro l'altro. È accaduto per esempio a Wall Street. L'economia americana è tornata a crescere e non teme la fine del ciclo monetario da parte della Federal Reserve. Così gli indici di borsa sono sui massimi di sempre, il dollaro si rafforza e il petrolio sta continuando a scendere. In Europa le borse sono invece un po' più lente, incontentabili davanti alle misure straordinarie adottate fino ad ora dalla Banca Centrale Europea di Mario Draghi, tanto che lo stesso Draghi ha dovuto garantire di essere pronto con altre misure non convenzionali. D'altronde l'economia reale ne chiede, la stessa BCE ha tagliato negli ultimi giorni di nuovo le stime di crescita di tutta l'Eurozona. In Italia l'osservato speciale è ancora il settore bancario, dopo gli stress test non è ancora ripristinato il clima di fiducia attorno alla situazione patrimoniale dei principali istituti di credito italiani, come si è visto dalla reazione la scorsa settimana da parte degli investitori ai conti presentati dalle principali banche italiane, Banca Intesa San Paolo e Unicredit, anche se la più tormentata di sempre è ancora Monte dei Paschi, costretta l'anno prossimo ad un nuovo aumento di capitale. Meglio lo spread, in settimana è scivolato sotto i 150 punti base, forse il mercato dà fiducia alla legge di stabilità, ma è ancora sicuramente troppo presto per dirlo. Questa settimana gli appuntamenti centrali da monitorare sono intanto la riunione della Banca Centrale del Giappone, l'audizione di Mario Draghi al Parlamento europeo, gli indici manifatturieri per quello che riguarda l'Italia, i nuovi dati su fatturato e ordini all'industria. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Salvatore Padula. Di questi tempi non è facile trovare dati economici positivi. È di pochi giorni fa la notizia che nel terzo trimestre di quest'anno il PIL è diminuito dello 0,1% rispetto ai tre mesi precedenti e ha fatto ripiombare l'Italia in recessione, peggio ancora ha riportato l'economia italiana praticamente ai livelli del 2000. Oggi però una piccola luce la vediamo, è un piccolo segno di ottimismo che certamente vale la pena di cogliere. Nel mese di settembre le esportazioni delle nostre industrie sono cresciute del 7,4% rispetto al 2013, grazie anche a un calendario favorevole con un giorno di lavoro in più. Ma insomma si conferma che l'export continua ad essere la vera ancora di salvezza della nostra economia. E si tratta di un segnale importante per almeno due motivi. Innanzitutto perché da alcuni mesi il nostro export era in frenata, mentre ora si torna a crescere. Esportiamo molto nei paesi extra UE e andiamo bene anche all'interno dell'Unione Europea. Inoltre, al buon andamento dell'export si affianca una ripresa delle importazioni che crescono del 3,3% rispetto al mese di settembre del 2013, il che è un ulteriore segnale di dinamismo della nostra manifattura. Certo, non sono tutte rose e fiori e la strada per la ripresa è e resta molto molto lunga, ma insomma questi dati sono lì a ricordarci che fortunatamente una parte della nostra industria gode ancora di una discreta salute.